Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono quasi le 21 e 2 minuti a Radio 24. Buonasera da Marta Cagnola, anche questa sera con voi per Effetto Notte. Credo sia l'ultima sera, quindi abbiate pazienza, anche per questa sera vi terrò compagnia dalle 21 alle 22 con questa trasmissione. Poi ci risentiremo nei giornali radio di Radio 24 e anche sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, come sempre nella mia collocazione più spontanea e naturale, che è quella del sabato del villaggio. Ma cominciamo anche questa serata, quest'ora dedicata alle notizie, agli approfondimenti della redazione di Radio 24 con i titoli. Se sospendono Report, gli italiani sospendano il pagamento del canone, lo scrive il presidente della vigilanza Rai Fico dopo la puntata sui vaccini. Il presidente Maggioni: nessuno ha mai pensato di chiudere la trasmissione. Diventa definitivo il decreto che abolisce i voucher già approvato dalla Camera. Si decide anche sul biotestamento, il paziente avrà il diritto di abbandonare le terapie. La manovrina arriverà domani, lo ha annunciato il ministro Padoan. Poi il calcio, la serata di Champions e la notte di Barcellona-Juve. E mentre alzo gli occhi e vedo che Barcellona-Juve sono ancora sullo 0-0, ma ci terrà aggiornati il nostro Dario Ricci, col quale ci collegheremo durante tutta l'ora di Effetto Notte. Andiamo alla notizia di apertura: alta tensione in casa Rai sul futuro di Report dopo la bufera sulla puntata sul vaccino contro il papillomavirus. Le rassicurazioni della presidente Rai Monica Maggioni sulla prosecuzione del programma in audizione di commissione di vigilanza non bastano a fermare le richieste dei membri del CDA di verifiche sulle responsabilità degli autori e sui risultati della trasmissione. Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report, ha però affermato la giornalista. Dopodiché una parola mi sembra importante dirla su quello che sta accadendo in queste ore. Ho sentito le ricostruzioni più fantasiose. Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report. Quindi, tanto per sgombrare il campo dalle illazioni, dalle ipotesi e dalle fantasie. Questa cosa non è passata per la testa di nessuno, quello che vi chiedo, perché io trovo molto importante il lavoro che viene fatto in questa commissione, vedete, il lavoro che viene fatto in questa commissione, io lo so che molte volte quando si va nei luoghi istituzionali si dice io ritengo importante questo luogo perché poi è una sorta di minuetto. Io ci credo davvero invece. All'inizio la giornata era stata caratterizzata dalla polemica politica. Il presidente della commissione di vigilanza Roberto Fico aveva scritto: se sospendono Report, aveva appunto scritto su Facebook, gli italiani sospendano il pagamento del canone. Ora però la polemica è chiusa, ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, al microfono di Elisabetta Fiorito. Roberto Fico, c'è questa polemica sul Report, si insorge contro questo servizio sui vaccini. Sì, io direi polemica chiusa. Oggi la Maggioni in commissione di vigilanza ha detto Report non si tocca, io intendo anche che non si tocca neanche le spese legali a cui Report deve fronteggiare, alcune volte, e sui vaccini e su tutta questa situazione qui l'informazione deve essere sempre completa, obiettiva, imparziale, ma non vale solo per Report, vale per tutti. È sospettata di aver solo finto di vaccinare molti dei bambini portati al suo ambulatorio, buttando via le fiale dopo aver registrato la prestazione. Un'infermiera è al centro di un procedimento disciplinare dell'ASL 2 di Treviso. I colleghi si erano insospettiti perché i bimbi non piangevano durante l'iniezione. Il caso era stato segnalato nel giugno 2016 a NAS e Procura, ma a marzo dello stesso anno, a marzo 2016 il GIP su richiesta del PM aveva archiviato. L'ASL ha avviato una campagna di richiamo che riguarderebbe 500 pazienti. Il decreto che abolisce i voucher, già approvato dalla Camera, diventa definitivo. Il provvedimento passa infatti al Senato con 140 sì, 49 no, 31 astenuti. A questo punto potrebbe non esserci più il referendum. Essendo il testo corrispondente al quesito referendario, ci immaginiamo che la Corte di Cassazione applichi le norme che prevedono la possibilità di non svolgere il voto, ha detto il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. ovviamente, ha aggiunto l'ultima parola spetta proprio alla Corte di Cassazione. Ora parliamo del testo sul biotestamento all'esame del Parlamento. Il paziente potrà dire no alle terapie. La vera novità è che il paziente potrà abbandonare le terapie, ma il medico potrà appellarsi all'obiezione di coscienza e rifiutarsi di staccare la spina. La modifica al disegno di legge sul biotestamento è contenuta in un emendamento votato in aula alla Camera. L'articolo, passato con 326 voti, è il cuore del provvedimento che verrà licenziato domani. È stata codificata l'umanizzazione del morire, spiega Mario Marazziti, presidente della Commissione sul biotestamento. Sulla terapia del dolore, la medicina palliativa, anche la sedazione palliativa continua profonda quando il dolore sia refrattario alle cure e si sia in una fase terminale della vita, in imminenza della morte, e questo umanizza il morire. Protesta l'Associazione delle strutture sanitarie cattoliche, che equipara la possibilità di sospendere nutrizione ed idratazione all'eutanasia. C'è poi il divieto di accanimento terapeutico. Il principio è quello che nel caso di un paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi ad ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il decreto di correzione di crescita, la cosiddetta manovrina, dovrebbe arrivare domani, lo ha annunciato il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, che oggi è intervenuto sul DEF. Ammette che il livello di crescita raggiunto non entusiasma e che il tasso di disoccupazione rimane inaccettabilmente elevato. Il ministro dell'economia Padoan espone alle commissioni bilancio di Camera e Senato il DEF, annuncia poi che la cosiddetta manovrina arriverà domani alle Camere e chiarisce il senso di quella ipotesi che tanto fa discutere di uno scambio tra un aumento dell'IVA e il taglio del cuneo fiscale. L'intendimento del governo dice quello di escludere tale aumento attuando una manovra alternativa. Io posso avere le mie preferenze, alcune di queste preferenze sono state amplificate in un modo assolutamente distorto dalla stampa nei giorni passati, è una delle tante ipotesi. Diversa la posizione di Banca Italia sulle clausole di salvaguardia, il vice direttore generale Luigi Signorini. Una riconsiderazione dell'ampio ventaglio delle aliquote dell'IVA non dovrebbe a questo stadio, a nostro avviso, essere esclusa. In mattinata ha sentito anche l'Istat. Sono 7,2 milioni gli italiani che vivono in condizione di disagio, in grave deprivazione materiale, ha denunciato l'istituto, soprattutto anziani e disoccupati, di cui la richiesta al governo di misure in particolare per il contrasto alla povertà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Mediaset peggiore delle attese per il bilancio 2016, pesa il caso Vivendi. Un impatto negativo per 341 milioni di euro. Mediaset mette nero su bianco il costo del gran rifiuto che i francesi di Vivendi hanno opposto all'acquisto di Mediaset Premium. L'accordo era stato raggiunto ad aprile 2016, per poi essere ripudiato a fine luglio. Da lì l'inizio di un corpo a corpo che ha avuto un momento chiave con la pronuncia di Agicom. Telecom o Mediaset? I francesi devono decidere. Il livello di partecipazione attuale in entrambe le società viola la legge secondo Agicom. Vivendi si è detta pronto al ricorso al TAR e Unione Europea. Fonti vicine al gruppo avrebbero comunque segnalato che Mediaset non è la sola opzione strategica in Italia, pur senza indicare un piano B. La guerra fra Cologno e il gruppo che fa riferimento a Bolloré ha intanto portato in dote a Cologno il peggior bilancio della storia, con una perdita netta nel 2016 pari a 294,5 milioni di euro. Non sarà così però nel 2017, che invece sarà inutile, ha dichiarato parlando ai cronisti l'AD di Cologno Pier Silvio Berlusconi. Senza la vicenda Vivendi, ha detto, avremmo chiuso in pareggio. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La morte di Stefano Cucchi a un giorno dalla prescrizione, il PG della Cassazione chiede di annullare l'assoluzione dei medici. Sono da annullare le assoluzioni dei 5 medici dell'ospedale Romano Pertini che erano stati rinviati a giudizio per l'omicidio colposo di Stefano Cucchi, il giovane arrestato per droga e morto in ospedale il 22 ottobre 2009. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Mura con una requisitoria davanti alla prima sezione penale, in cui ha criticato il verdetto dell'appello bis per aver eluso il mandato della Cassazione e non avere disposto una nuova perizia. Si tratta di un reato al momento non prescritto e così lo affronto chiedendo l'annullamento delle assoluzioni e salvando gli aspetti risarcitori istruttoria, ha affermato Mura, secondo il quale la Corte di Assise d'Appello di Roma, prosciogliendo nell'appello bis i 5 medici del Pertini, ha sovrapposto indebitamente il suo giudizio non scientifico a quello del collegio di periti che hanno affermato che Stefano Cucchi poteva essere salvato. I 5 sanitari erano stati condannati in primo grado, prosciolti in appello e assolti nuovamente nell'appello bis disposto dalla Cassazione nel giudizio di rinvio. Per loro la prescrizione maturerà domani, ma se la Suprema Corte dovesse annullare i proscioglimenti, sarebbe salvo il diritto dei familiari di Cucchi e delle parti civili di avere il risarcimento dei danni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ha lasciato l'ospedale di Rimini nella tarda mattinata uno dei due superstiti del naufragio della barca a vela ieri, che è naufragata all'ingresso del porto, 4 le vittime e indagini in corso. Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Rimini a dover chiarire le cause del naufragio del DPU, il Bavaria a vela da 15 metri che è andato a schiantarsi contro gli scogli del porto nel pomeriggio di ieri. Al momento il pubblico ministero che indaga su quanto accaduto ha aperto un fascicolo a carico di ignoti dove si ipotizza il reato di naufragio colposo e si sta valutando se sottoporre i cadaveri all'esame autoptico. Nella tragedia hanno perso la vita 4 persone sui 6 che formavano l'equipaggio. L'imbarcazione verso le 12.30 di ieri era salpata da Marina di Ravenna diretta a Trapani. Li ho visti partire, gli avevo sconsigliato la traversata. Purtroppo è stato commesso un errore di valutazione, ci ha raccontato Michele Capra, il dealer della Bavaria che aveva venduto l'imbarcazione. A Rimini è molto complicato, diciamo, con quel tempo lì loro magari erano già stanchi, avevano preso freddo e hanno avuto appunto voglia di fermarsi, di ripararsi, ma non è proprio il posto giusto con quel tempo dove entrare. Lì bisognava insistere, rimanere al largo, magari andare verso Ancona. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ministro degli esteri Angelino Alfano ha chiamato il suo omologo turco per ribadire la richiesta di rilascio immediato di Gabriele Del Grande, il documentarista e giornalista italiano fermato 10 giorni fa a Mugla sulla costa Egea della Turchia. Il presidente della Commissione per i diritti umani Luigi Manconi, che ha avuto un colloquio telefonico con l'avvocato di Gabriele Del Grande, ha affermato che il viceconsole italiano ad Ankara e il legale turco di Del Grande sono andati nel carcere dove è detenuto, ma le autorità turche hanno impedito loro di vederlo. Ne parleremo tra poco in uno degli approfondimenti del nostro Effetto Notte. Via libera alle elezioni politiche anticipate in Gran Bretagna. La Camera dei Comuni ha approvato senza sorprese la mozione del governo di Theresa May per la convocazione del voto il prossimo giugno, superando il quorum richiesto dei 2/3. E poi la Francia, con una notizia appena battuta, è in corso la manifestazione di Marine Le Pen a Marsiglia, l'ultimo incontro con gli elettori, 5.000 militanti che hanno intonato la marsigliese. Come ha iniziato Marine Le Pen, ha detto che è arrivato il momento di un'insurrezione nazionale, un'insurrezione democratica per restituire la Francia al proprio popolo. Parleremo anche di questo argomento nel nostro Effetto Notte. Ma è il momento di aggiornarci sul calcio Barcellona-Juventus. Dario Ricci, come sta andando? Quanto stai soffrendo? Si soffre parecchio. Fortunatamente soffro più della Juventus, almeno fino al 29esimo del primo tempo, perché al Camp Nou risultato ancora di 0-0 di fronte ai 100.000 tifosi catalani del Camp Nou. 0-0 finora, una buona Juve nella fase iniziale, anche vicino al vantaggio con un destro di Higuain di poco alto. Seguiamo questo calcio d'angolo del Barcellona, respinge di testa la difesa bianconera con Khedira e parte anzi il contropiede, bloccato però subito dai centrocampisti Blaugrana. Un Barcellona che ci ha messo un po' a carburare, però al 19esimo, vicinissimo al vantaggio, il Barça, grazie a Messi che ha sfruttato una carambola e di sinistro ha calciato praticamente dall'altezza del dischetto, sembrava di fatto gol, Marta, fortunatamente per i tifosi bianconeri, palla che invece si è spinta al lato del palo più lontano della porta difesa da Gigi Buffon. Una Juventus comunque viva, che prova anche in questo istante, seguirei questo contropiede se sei d'accordo con Mandzukic, a portarsi in avanti. Ancora i bianconeri che manovrano con Pjanic, palla sulla tre quarti, insomma di fatto una Juventus che finora non ha corso grandi pericoli e quando ha potuto si è fatta vedere dalle parti di Ter Stegen. Siamo al 30esimo, Barcellona 0 Juventus 0. A Monaco invece i francesi del Monaco sono in vantaggio per 2-0 sul Borussia Dortmund, risultato che li avvicina decisamente alle semifinali visto il 3-2 sempre per i transalpini anche nella gara d'andata. Grazie, grazie a Dario Ricci, ci collegheremo costantemente con te perché insomma ci sono i tifosi juventini e anche tutti i tifosi italiani che vogliono sapere come sta andando, come andrà questa Barcellona-Juventus. È il momento di dare la linea al traffico e ci ritroviamo tra poco con una pagina di Esteri. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. I titoli della giornata, se sospendono report o come dice qualche ascoltatore al 349-238-6666 report, ma ormai siamo abituati a chiamarlo così. Se sospendono report, gli italiani sospendano il pagamento del canone, lo scrive il presidente della vigilanza Rai Fico dopo la puntata sui vaccini. Il presidente Rai Maggioni, nessuno ha mai pensato di chiudere la trasmissione e Fico dice la polemica è chiusa. Diventa definitivo il decreto che abolisce i voucher già approvato dalla Camera, si decide anche sul biotestamento, il paziente avrà il diritto di abbandonare le terapie. La manovrina arriverà domani, lo ha annunciato il ministro Padoan. Calcio, serata Champions, lo abbiamo appena sentito, la notte di Barcellona-Juve. Gabriele è persona conosciuta, Gabriele è persona che sempre ha dato voce a chi non ha voce e ora ha chiesto lui di dar voce a lui, quindi dobbiamo mobilitarci tutti per dargli voce e per far sì che torni a casa libero e dalla sua famiglia. E questo è l'appello del padre di Gabriele Del Grande, lo abbiamo detto, 10 giorni, è stato arrestato in Turchia, si trovava in una zona in cui non doveva essere e insomma il ministro degli esteri Alfano ha chiamato il suo omologo turco per ribadire la richiesta di rilascio immediato, ma per ora la situazione non si muove da qui. Sentiamo cosa ha detto il ministro Alfano, dovremmo avere la sua voce, ecco qui. Ho ricevuto da parte del collega turco il massimo impegno relativamente alla loro attenzione al caso e al fatto che le loro procedure che seguono il corso della legge turca vengano concluse al più presto. Abbiamo ribadito e ho ribadito con forza che la vicenda procedurale in corso non può in alcun modo impedire l'assistenza legale e ogni forma di sostegno e assistenza a Gabriele Del Grande e ho chiesto che il tutto venga concluso nei termini più rapidi possibili nel comune interesse della comune relazione italo-turca. Mi è stato assicurato che tutto quanto è nelle possibilità. Allora, una situazione molto complessa, una situazione della quale non stiamo ancora vedendo una soluzione. Per cercare di capirne di più ci colleghiamo con quella che io sono convinta sia la più competente giornalista italiana in questo momento sui fatti turchi, corrispondente della Turchia, recentemente autrice, ve lo voglio segnalare, di Il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia, un libro davvero importante. Marta Ottaviani, buonasera Marta. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per i complimenti, adesso devo dimostrare che me li merito. Guarda Marta, io chi segue me o te sui social sa che io ogni volta commento sempre quello che scrivi e ogni volta che si parla di Turchia aspetto sempre una tua presa di posizione perché tu davvero sai spiegare esattamente quello che succede nel paese. Sembrava che nei primi giorni si parlasse molto poco di questa vicenda di Gabriele Del Grande, come se fosse una di quelle cose destinate a risolversi nel giro di poche ore, nel giro di pochi giorni. Non è stato così. Tu come la vedi, Marta? Ma allora, nei primi giorni se ne parlava poco perché la procedura solitamente implementata dai turchi prevede il fermo per 48 ore e poi l'espatrio. Era già successo in alcuni casi in passato, non con reporter italiani ma con reporter stranieri, quando non venivano fermati direttamente all'aeroporto. E quindi, chiedo scusa per l'apparente cinismo con cui parlo, quando è scoppiato il caso Del Grande tutti si aspettavano che venisse sostanzialmente lasciato andare, riportato in Italia. Di solito si timbra si firma un documento con il quale non si può rientrare in Turchia da 1 a 3 anni, e quindi tutti si aspettavano che si sarebbe risolto in questo modo. Invece no, Del Grande è ancora trattenuto. Io l'ultimo update che ho è che è stato inviato il console di Smirne per poterlo incontrare personalmente, ma questo non credo sia ancora avvenuto. Ieri Del Grande ha avuto modo di parlare con la sua famiglia, con sua moglie, però per breve tempo, e ha detto di essere stato arrestato per il suo lavoro. Io devo dirvi che spero ovviamente in una conclusione rapida di questo processo per due motivi. Il primo è che c'è un precedente pericoloso ed è rappresentato dal giornalista Deniz Yücel, che ha una doppia cittadinanza turco-tedesca. E giornalista che dopo, della Welt? Del Die Welt. E dopo un procedimento molto simile a quello di Del Grande è stato arrestato e adesso si trova in carcere da 2 mesi con l'accusa dell'associazione organizzazione terroristica, anzi di propaganda organizzazione terroristica. E il secondo invece motivo per cui temo è che dopo il conseguimento di una vittoria, seppure di misura, al referendum, ormai il presidente Erdogan è in preda a un pieno delirio di onnipotenza e non vorrei che il caso Del Grande diventasse un nuovo caso Baraldini, ve lo dico molto chiaramente. Poi io spero di essere chiaramente smentita dai fatti tra pochi giorni, sono certa che le nostre autorità diplomatiche e il nostro governo si stiano spendendo in tutti i modi perché questo non succeda, però vi devo dire che finché non conoscendo i turchi, la loro mentalità e anche il clima che cova all'interno del paese in questo momento, finché non vedo Del Grande atterrare all'aeroporto di Roma, non sono tranquilla. Marta, hai citato il referendum, hai citato Erdogan, quarto giorno di proteste in piazza, Istanbul e anche Ankara, anche qui come la vedi la situazione? Ma allora, c'è da dire, ci sarebbe da scrivere un libro su questa cosa, non è detto che non lo faccia, però il discorso è questo: Erdogan è stato votato ufficialmente dal 51,4% dell'elettorato e ha un fronte assolutamente compatto. Chi ha votato il sì ha votato Erdogan, chi ha votato il no ha votato differenti riferimenti politici. È una Turchia estremamente polarizzata, una Turchia dove cova un'area di scontro. Le persone che sono scese in piazza sono un'ampia minoranza di quelli che hanno votato no, anche perché ricordiamo che in Turchia dal luglio scorso vige uno stato di emergenza che limita profondamente le libertà individuali e che scadrà il prossimo 19 luglio, quindi quelli che stanno scendendo in piazza in questo momento stanno veramente rischiando grosso. Accidenti. Tra l'altro mie fonti in polizia, quelle che mi rimangono, mi hanno detto che l'ordine è quello di lasciarli manifestare e di arrestarli nel caso in cui passino il segno. Quindi c'è un'apparente, come dire, benevolenza, un'apparente parvenza di democrazia, però oggi intanto a Istanbul ci sono stati i primi arresti. Ci sono stati i primi 38 arresti e purtroppo col risultato che ha ottenuto Erdogan all'ultimo referendum è possibile che questi arresti aumentino nei prossimi giorni. Una situazione che dobbiamo tenere sott'occhio, sotto controllo. Grazie. Dovrebbe farlo soprattutto l'Europa, che però insomma non si è ancora espressa in maniera forte sotto questo aspetto. Sì, noi italiani ce ne stiamo accorgendo con la storia di Gabriele Del Grande, abbiamo cominciato ad avere davvero l'idea della situazione. Grazie a Marta Ottaviani, fammi ancora ricordare il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia, Textus Edizioni, perché è davvero un testo fondamentale. Grazie Marta. Grazie di cuore, arrivederci. Allora, dalla Turchia io andrei a fare un salto in Francia. Allora, comizio di Marine Le Pen, abbiamo detto come ha iniziato questo comizio a Marsiglia. Com'è la situazione? Lo chiediamo a Marco Mussanè, Il Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, come hai visto questo inizio di comizio di Marine Le Pen e soprattutto qual è la situazione sotto questo punto di vista? Per sotto questo punto di vista intendi il... Cosa intendi? Allora, questo punto di vista? Intendo sull'impatto della candidata Le Pen e a questo punto come si sta mettendo la situazione per i candidati e in particolare per la signora Le Pen. La situazione rimane quella di una grandissima incertezza, 4 giorni dal voto, con 4 candidati che hanno la possibilità di superare il primo turno e andare al duello finale del ballottaggio del 7 maggio, anzi gli scarti si stanno persino restringendo. È evidente che in un momento come questo, in cui si va a conquistare anche l'ultimo voto in presenza di una quota di elettorato indeciso ancora molto ampia, tutti i candidati stanno cercando di puntare sugli slogan più caratterizzanti dei loro programmi. Nel caso specifico della Le Pen, negli ultimi giorni ovviamente sta calcando la mano sui temi dell'immigrazione, della lotta all'immigrazione anche regolare. Adesso ha rilanciato l'idea di una moratoria, di una sospensione dei permessi anche agli immigrati regolari, e sul fronte ovviamente della sicurezza, della lotta al terrorismo. È chiaro che eventi come quello di ieri a Marsiglia, con l'arresto di due potenziali terroristi che si stavano apparentemente accingendo a commettere un attentato, arresti avvenuti peraltro a pochi chilometri da dove si svolge il meeting della Le Pen, hanno ovviamente rafforzato questo argomento. Il meeting della Le Pen non è peraltro il solo di oggi, in contemporanea c'è quello di Macron a Nantes, c'è il saluto finale, in qualche modo anche un po' triste, del candidato socialista Hamon a Parigi, e sono le ultime ore di questa campagna, gli ultimi giorni di questa campagna. È chiaro che la battaglia si sta facendo sempre più dura. Si parla di una Marsiglia blindata, però mi pare che la situazione sia sotto controllo. Ma no, adesso insomma mi sembra che ci sia un'attenzione eccessiva su questo comizio della Le Pen. Il comizio della Le Pen è un comizio che si sta svolgendo in condizioni, con ovviamente un innalzamento dei livelli di sicurezza intorno ai meeting aerei, ma si sta svolgendo in condizioni assolutamente regolari. Peraltro non dimentichiamo che secondo i servizi di intelligence francesi il candidato maggiormente nel mirino, terrorismo islamico, non è la Le Pen, ma è il candidato della destra, istituzionale, chiamiamola così, François Fillon. Grazie a Marco Mussanè, corrispondente a Parigi del Sole 24 Ore. Grazie per questi aggiornamenti. Grazie. Buona serata e buon lavoro a Marco Mussanè. Allora, sono le 21:29 minuti. Direi che possiamo dare la linea a una breve pausa, poi ci aggiorneremo anche sul risultato della partita. Per ora ancora 0-0, ma la vedo molto molto intensa. Ogni tanto butto un occhio. Una breve pausa, poi saremo ancora insieme con Effetto Notte. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E prima dei titoli del nostro Effetto Notte, una notizia dell'ultima ora: è stata annullata dalla Cassazione la sentenza dell'appello bis che aveva assolto i 5 medici dell'ospedale Romano Pertini accusati dell'omicidio colposo di Stefano Cucchi. I proscioglimenti sono stati annullati con rinvio, ma domani scatterà la prescrizione del reato. Il PG Mura aveva chiesto l'accoglimento del ricorso della Procura di Roma contro le assoluzioni. Se sospendono Report, gli italiani sospendano il pagamento del canone, lo scrive il presidente della vigilanza Rai Fico dopo la puntata sui vaccini. Il presidente Rai Maggioni: nessuno ha mai pensato di chiudere la trasmissione. Diventa definitivo il decreto che abolisce i voucher, già approvato dalla Camera. Si decide anche sul biotestamento. Il paziente avrà il diritto di abbandonare le terapie. La manovrina arriverà domani, lo ha annunciato il ministro Padoan. E poi calcio, la serata Champions e la notte di Barcellona-Juve. E partiamo proprio da qui, da Barcellona-Juve, perché si è concluso il primo tempo. Com'è andata, Dario Ricci? Sì, buonasera Marta, primo tempo che si è concluso sullo 0-0, una Juventus che mi viene da dire mai in affanno contro il Barcellona, che lo ricordiamo deve rimontare i tre gol dell'andata, anzi decisamente meglio all'inizio i bianconeri con una bella conclusione al 13° di Higuain che ha calciato alto dal limite dell'area dopo un rimpallo fortunato, al 19° la migliore occasione per i padroni di casa con Messi a sua volta pronto a sfruttare un rimpallo a centro area che ha calciato incredibilmente al lato di sinistro dall'altezza del dischetto a Buffon che sembrava decisamente battuto. Poi è passato lo spavento, la Juventus ha ricominciato pian piano a riconquistare metri e campo e anzi al 39° bell'assist morbido di Pjanic a centro area per Higuain che riesce a deviare al volo di destro ma non a sorprendere Ter Stegen pronto a bloccare il pallone. Nel finale del primo tempo si sono scaldati un po' gli animi, ammoniti Iniesta e Neymar, ma una Juventus che almeno fino a questo momento tiene e invece altro che tenere, vince, sta vincendo addirittura il Monaco nell'altra sfida di serata per 2-0 sul Borussia Dortmund, risultato che a questo punto avvicina davvero i francesi alla semifinale, vista anche la vittoria dei transalpini nella gara d'andata in Germania, quella lo ricorderai funestata dall'attentato, certo, nei confronti del pullman del Borussia, vittoria di transalpini all'andata per 3-2 e ora vantaggio netto, doppio vantaggio per 2-0 a Monaco. Grazie a Dario Ricci, ci risentiremo prima della fine di questo effetto notte, ma ora parliamo di cronaca. Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Rimini a dover chiarire le cause che hanno portato al naufragio del DPU, il Bavaria Vela da 15 metri che è andato a schiantarsi contro gli scogli del porto nel pomeriggio di martedì. 4 le vittime, 2 le persone tratte in salvo, una notizia che ha provocato grande emozione e grande dispiacere soprattutto in Veneto perché le persone arrivavano soprattutto da Verona e ovviamente la notizia è in apertura del sito dell'Arena di Verona, quotidiano che sta seguendo con grande attenzione questa notizia. Ci colleghiamo con il direttore dell'Arena, Maurizio Cattaneo. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Allora, immagino che per il vostro giornale sia una notizia assolutamente di primo piano perché le vittime venivano in gran parte da Verona. Sì, è una notizia che ha sconvolto la comunità anche perché Verona ha una grande tradizione velistica, qui c'è il lago di Garda ma poi c'è l'Adriatico, ci sono equipaggi che hanno partecipato alla Coppa America e poi più in generale proprio si pratica la vela. Ma in più queste persone erano note, c'erano 2 medici, un notaio, un ristoratore, insomma, e poi ci si chiede il perché di una tragedia tanto assurda con previsioni del tempo che ormai a 3 giorni sono abbastanza attendibili e un equipaggio molto esperto. Sentiamo cosa ha raccontato ad Anna Rita D'Ambrosio Michele Capra, il dealer della Bavaria che lavora al porto di Marinara, che aveva venduto un'imbarcazione e che l'ha vista lasciare il porto ieri mattina. Sentiamo questa intervista di Anna Rita D'Ambrosio. Ma la barca l'avevano acquistata da diversi anni. Avevano svolto dei lavori presso un cantiere qui di Ravenna, che è il cantiere Rioli. Questo, il periodo pasquale, è un po' il periodo nel quale chi è possessore di una barca organizza viaggi di questo tipo? Beh, se hai in mente sia dei trasferimenti o comunque andare nelle mete che saranno le mete estive, sono momenti che uno magari ha qualche giorno libero e organizza i trasferimenti adesso, certo. Per quel che ci è dato sapere, il maltempo così potente non era prevedibile? Era abbastanza previsto, purtroppo, quindi c'è stato a monte forse un errore di valutazione, però adesso fare adesso dietrologia è anche fuori luogo. Quando però l'imbarcazione ha lasciato Ravenna il tempo non era così, cioè il vento non era così forte? È arrivato una botta di vento dopo neanche mezz'ora che avevano lasciato il porto. Oggi la situazione è tornata alla calma, quindi insomma sì, che cosa oggi possiamo calma. Consigliare alle altre persone che fanno viaggi di questo tipo? Una maggiore prudenza forse? Ah, sicuramente, insomma, gli errori... Nessuno non ha mai fatto errori, certo che sì, bisogna essere, sì, considerare di più tutto, indossare i salvagenti piuttosto che, e forse anche diciamo la valutazione del posto dove si va a entrare. Rimini è molto complicato, diciamo, con quel tempo lì loro magari erano già stanchi, avevano preso freddo e hanno avuto appunto voglia di fermarsi, di ripararsi, ma non è proprio il posto giusto con quel tempo dove entrare. lì bisognava insistere, rimanere al largo, magari andare verso Ancona. Il mezzatore al quale hanno telefonato per avere il posto ha detto che sono stati caricati da un'onda e perdendo il controllo sono andati sulla barriera di rocce, quindi diciamo che è una collisione, in sostanza non sono riusciti a centrare quello che era il giusto varco per entrare. Dopo da una parte all'altra ci sono delle secche, oltre a questo molo che è fatto di pietra. Ecco, perché lei, come mi diceva, è difficile entrare, quindi con quelle condizioni ancora di più. Guardi, è una zona della Riviera che con le condizioni brutte è tutta difficile, tranne che Ravenna, che è un posto molto sicuro. E quindi bisogna considerare che in quei porticcioli, anche molto carini, Cervia, Cesenatico, Cattolica, eccetera, Rimini anche, con queste condizioni meteo, se si può non entrare, è meglio. E siamo sempre collegati con il direttore dell'Arena di Verona, Maurizio Cattaneo. Anche voi avete intervistato dei testimoni, sembravano marinai esperti, anche a voi hanno ribadito questa tesi i vostri intervistati dall'Arena di Verona, direttore? Sì, tra l'altro noi abbiamo intervistato un meteorologo che dice appunto che il Mediterraneo in generale è un mare molto pericoloso, molto più pericoloso a volte degli oceani dove ci sono dei venti costanti. Invece i cambiamenti molto repentini delle condizioni meteo del Mediterraneo, sia per quanto riguarda l'Adriatico che il Tirreno, insomma pone l'accento sulla prudenza. La prudenza non è mai troppa, certo l'equipaggio era esperto, ma probabilmente sono stati commessi degli errori. Ecco, anche i velisti esperti hanno questo motto, tra virgolette, più il mare è agitato più bisognerebbe rimanere al largo. Non tentare quello che umanamente invece viene voglia di fare, cioè salvarsi in un porto. Invece rimanere al largo significa comunque mettere in sicurezza la barca. E questo non è stato fatto, probabilmente non si doveva partire e poi non si doveva atterrare. Direttore, il vostro sito online in questo momento titola "Naufragio di Rimini, fuori pericolo, uno dei feriti". Questo è l'aggiornamento che voi avete sulla condizione dei superstiti di questa tragedia. Sì, devo dire che in queste ore il nostro sito internet è stato un po' al centro anche delle informazioni, sia con la comunità veronese sia con gli stessi parenti che hanno saputo di questa notizia in televisione, l'hanno saputo in vari modi. E poi sono rimasti in contatto con noi e noi a nostra volta con le capitanerie di porto. Insomma, quindi abbiamo fatto anche un lavoro di questo genere, di cerniera. Adesso appunto uno dei feriti è fuori pericolo, un altro sta tornando a Verona, gli inquirenti l'hanno interrogato, insomma ha spiegato un po' la dinamica, anche se appunto l'avvocato gli ha consigliato di non parlare direttamente con i media, proprio perché è stata aperta questa inchiesta di naufragio colposo, e quindi insomma vedremo nelle prossime ore se riusciremo a capire effettivamente quello che è avvenuto su questa barca. Grazie al direttore dell'Arena di Verona, Maurizio Cattaneo, buon lavoro, a presto. Grazie direttore. A voi, buonasera. E noi voltiamo pagina, chiudiamo la pagina della cronaca, perché abbiamo anche una piccola pagina di cultura. Sono molto contenta di poter parlare di questa manifestazione veramente molto bella che è stata inaugurata oggi a Milano, Tempo di Libri, la nuova fiera dell'editoria in concorrenza con il Salone di Torino. Fino a domenica incontri con scrittori italiani e stranieri che si confronteranno su diversi temi. Incontro clou di questa prima giornata, quello con Roberto Saviano, che ha dialogato sul concetto di dissidente. L'ha intervistato per noi Alessandra Tedesco. Da un lato potrebbe sembrare essere controvento, in realtà non è così secondo me. Essere dissidenti in questo momento significa allontanarsi dalle dinamiche di potere, anche semplicemente il potere del consenso, semplice e facile, quello di ottenere per esempio i like attraverso un linguaggio aggressivo, sempre sarcastico. La dissidenza è quando ci si mette, diciamo, in opposizione alla posizione dominante, quando ci si mette in opposizione a una posizione di autorità. Oggi essere dissidente significa anche comunicare tutto questo, non viverlo semplicemente. E quindi ciò che pone il dissidente nella difficile condizione anche sulla propria vita è che non è più il dissidente di un tempo che per un'idea e per un libro, per un articolo veniva arrestato, condannato, imprigionato, ma perché ha deciso di condividere. E quindi la condivisione ha funzionato talmente tanto da renderlo pericoloso per una prossima condivisione. Ma quindi essere dissidente vuol dire anche che si paga un prezzo? Si paga sempre un prezzo. La dissidenza in realtà te ne accorgi di viverla proprio quando stai pagando un prezzo. Prima di pagare il prezzo pensi che sei dentro la legittima dinamica della critica. Quando invece stai pagando un prezzo, lì comprendi che la dinamica legittima della critica ti viene sostanzialmente sottratta e quindi diventi un dissidente proprio perché le tue parole ti stanno facendo pagare prigione, cambio di vita, collasso della propria immagine perché magari vieni massacrato dal fango. E quindi la dissidenza la percepisci proprio quando paghi un prezzo per le tue idee. È il momento del traffico, poi saremo ancora insieme con l'ultima parte di Effetto Notte. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se sospendono Report, gli italiani sospenderanno il pagamento del canone, lo scrive il presidente della vigilanza Rai Fico dopo la puntata sui vaccini. Il presidente Rai Maggioni: nessuno ha mai pensato di chiudere la trasmissione. Diventa definitivo il decreto che abolisce i voucher, già approvato dalla Camera. Si decide anche sul biotestamento. Il paziente avrà il diritto di abbandonare le terapie. La manovrina arriverà domani, lo ha annunciato il ministro Padoan. Calcio, serata Champions e la notte di Barcellona-Juve. Allora, gli studenti sono sufficientemente soddisfatti della loro vita scolastica, ma sono rosi da un'ansia di prestazione decisamente superiore alla media e sono forti consumatori di internet. Entrambi questi fattori non favoriscono l'apprendimento e la motivazione nella carriera scolastica, secondo quanto sottolinea il nuovo rapporto dell'OCSE sul benessere degli studenti pubblicato oggi. Questo si dice degli studenti italiani, campioni di ansia di internet, ma abbastanza felici della scuola. Peggio dei nostri stanno solo gli studenti cinesi, colombiani, tunisini e di Singapore. Gli studenti italiani sono fra i più stressati dei paesi OCSE. Si dicono poco soddisfatti della loro vita, sono molto tesi quando studiano, vanno in ansia prima di un'interrogazione o di una verifica 3 quindicenni su 4, anche se hanno studiato e sono preparati. Temono in maniera quasi ossessiva il brutto voto. Ragazzi italiani nervosi a casa e fra i banchi, in particolare se frequentano scuole competitive, ma soprattutto per un dialogo che sembra mancare con gli insegnanti, stressati pure loro del resto e vittime di burnout in numeri impressionanti. E quando mollano i libri per fare finalmente altro i nostri ragazzi, è ad internet che si dedicano. Più di un 15enne su 5 dice di usare la rete per oltre 6 ore al giorno, finendo nella categoria dei consumatori estremi. Quasi 1 su 2 dice di sentirsi proprio male se non c'è una connessione ad internet, ma in questo caso, consoliamoci, siamo messi meglio della media OCSE. Chiudiamo con un dato che vede l'Italia con i risultati migliori: il senso di appartenenza all'interno dell'ambiente scolastico. Solo 1 su 10 si sente escluso o a disagio con i compagni, tutti gli altri fanno amicizia con facilità. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per commentare questo rapporto dell'OCSE e soprattutto questo stato d'animo degli studenti italiani, chissà se davvero questo ritratto può essere attendibile, ci colleghiamo con un giornalista, un insegnante, ma anche un blogger, autore di tanti libri sulla scuola. Ci sono un sacco di titoli: Riprendiamoci la scuola, L'eredità, La scuola che resiste, Tutti in classe, Gita in pianura, La cattiva scuola, Un'inchiesta senza peli sulla lingua e il mio preferito, Sai maestro che da grande voglio fare il premier. Alex Corlazzoli, buonasera. Eccoci qua, buonasera Marta, li hai detti tutti proprio. Li ho detti tutti, no, ma non, li ho imparati a memoria. Immagino, no, chiaramente da giornalista lo immagino. Ho barato, insegnante. Viva chi copia. Grande scuola di vita, anche secondo me, sapere un po' copiare, un pochino. Cioè, direi di sì, magari se copia hai meno ansia, anche se sai copiare bene, l'ansia un po' va via, insomma, perché è vero quello che dicono i dati OCSE. È vero, la nostra scuola è veramente dipendente d'ansia. Sono ansiosi i ragazzi, come dice l'OCSE, ma sono ansiosi perché sono ansiosi i genitori che vogliono per forza il 10, il 9, l'8. Sai, la prima cosa che chiedono i genitori quando un bambino esce da scuola è: cosa hai preso oggi? La seconda è: cosa hai fatto? No, ma la prima è: cosa hai preso oggi? Mi è capitato fino a stamattina. E sono ansiosi i professori, i maestri, che sono pieni di verifiche, di compiti in classe, di interrogazioni, per fare cosa? Per dimostrare che loro fanno chiaramente le verifiche, per dimostrare ai loro dirigenti, i quali sono a loro volta ansiosi di dimostrare che la loro scuola è la migliore in assoluto. Insomma, una sorta di catena dell'ansia nelle scuole italiane. Ma a mettere più ansia ai ragazzi sono i genitori o gli insegnanti? No, sono senza dubbio, forse a pari merito, secondo me, purtroppo, sono veramente a pari merito, ed è vero quello che dicono alcuni insegnanti, che poi dipende molto dal rapporto che c'è tra insegnante e ragazzo, ma io lo noto, guarda, fin dalla scuola primaria, ma il voto in realtà, perché è una cosa interessante che dice l'OCSE, veramente sulla quale dobbiamo veramente riflettere parecchio, è che i nostri ragazzi sono terrorizzati soprattutto dal voto, cioè l'85% dei nostri studenti 15 anni si preoccupa di prendere un 4 o un 5, mentre nel resto dell'Europa sono solo il 66% a preoccuparsi dei voti. Ciò che preoccupa di più loro sono i test e i voti. E allora io dico un bel, permettimi insomma questa licenza, un bel baffo al voto, cioè non mi serve a niente il voto se lo devo vedere solo in quell'ottica. Ma immaginiamoci noi, proprio io, te, i nostri radioascoltatori, quando sappiamo scrivere una bella lettera d'amore, quando di fronte a un quadro di Ligabue veramente diciamo: ah, quel quadro è quello che mi ha fatto studiare la mia maestra, è quello che ho visto a scuola, non esce nessun omino dietro il quadro di Ligabue a dirci 10, 9, assolutamente, così. Io come me li sogno ancora i voti, di notte mi sogno ancora i compiti in classe. Ed ancora... è qualche anno che ho finito il liceo. È finito, ma basta con questa cosa, no? È terribile se ci pensi. Guarda, tra l'altro io lo vedo in classe, ho un ragazzo, non farò, so Giovanni per fare un nome di fantasia, ma in realtà ho in mente proprio il viso, il volto, fino a stamattina, fino all'anno scorso quando sono arrivato io, che nelle mie classi sono aboliti i voti chiaramente, questo ragazzino secondo i parametri della nostra scuola avrebbe avuto un 5. Siccome ho volito i voti, gli ho dato fiducia, l'ho caricato, alla fine oggi questo ragazzino ha un 10 in pagella, un 10 vero, perché alla fine in pagella li dobbiamo dare i voti, insomma, anche se io farei come Alberto Manzi, straordinario, ve lo ricordate? Ah, certo. Quel timbro, fa quel che può, quel che non può non fa, dovremmo tornare lì, dovremmo ritornare a ripassare un po' Alberto Manzi per togliere l'ansia nelle nostre scuole italiane. Ti chiedo un'ultima cosa, Alex, si dice che forse la minaccia in questo rapporto, si dice che forse la minaccia maggiore al benessere degli studenti è il bullismo. I dati sono preoccupanti, ma è solo un'esagerazione giornalistica o la situazione è davvero così? Non è ancora un allarme vero e proprio, nel senso che in una classe può capitare un caso su 20 ragazzini, ma esiste, però il problema non va assolutamente sottovalutato. Il malessere maggiore è quando gli insegnanti sottovalutano anche un solo caso di bullismo, perché poi chiaramente noi giornalisti lo sappiamo, questo caso si replica chiaramente, e allora sono... Ciò che conta è formazione degli insegnanti, devono essere formati per togliere l'ansia, devono essere formati anche su questi casi del bullismo, formati per essere degli educatori di strada, scendere insomma tra i banchi, giù dalle cattedre. E anche rispetto a quel dato che dicevate prima, che l'OCSE evidenzia molto bene, rispetto alla questione dell'internet, 6 ore al giorno, sì, sono tante. Ma chi è quel genitore che non sta pure 6 ore al giorno in internet? Infatti ci stavo pensando anch'io, i ragazzi hanno l'ansia quando non hanno la connessione, ma anche i grandi ormai. Ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo. Io stesso ce l'ho quando sono all'estero, e la prima cosa che fai quando entri in hotel qual è? Me la dà la password del wifi, è la prima cosa che chiediamo, non chiediamo neanche il numero della camera. E allora dobbiamo educarci tutti e finirla con questa storia che sono solo i giovani quelli che utilizzano in questo modo internet. Dobbiamo educarci tutti, rimetterci tutti al nostro posto. Grazie Alex Corlazzoli, maestro e giornalista. Io ripeto poi il titolo dell'ultimo libro, perché è bellissimo: sai, maestro, che da grande voglio fare il premier. E quindi io auguro anche all'alunno che voleva fare il premier Premier di farlo davvero. Mattia, speriamo che lo faccia davvero. Grazie Alex Corlazzoli, a presto. Grazie, a presto, ciao, buona serata. Allora, dopo aver parlato di ragazzi, che è uno dei miei argomenti preferiti, torniamo a vedere come sta andando Barcellona-Juventus. Torniamo dal nostro Dario Ricci. Ci sei, Dario? Eccomi qua Marta, 52esimo di gioco al Camp Nou, ancora 0-0 tra Barcellona e Juventus. Pochi istanti fa un diagonale di sinistro di Messi dal limite dell'area, alto sulla traversa della porta difesa da Buffon. Juventus che ha ricominciato anche questa ripresa col piglio attento, aggressivo, che ha avuto per tutti i primi 45 minuti, e anzi al 50esimo bel contropiede dei bianconeri, palla che arriva sulla destra a Quadrato che di destro, di diagonale, manda di pochissimo al lato della porta, questa volta difesa da Ter Stegen. Quindi 53esimo di gioco, ancora 0-0 tra Barcellona e Juventus. Seguiamo questa azione perché c'è il controcampo bianconero, ancora Quadrato sulla destra, entra in area di rigore, rientra sul sinistro liberandosi di Jordi Alba, ancora un dribbling il destro che si spegne sul fondo, però sul tiro sul primo palo. Quadrato reclama un calcio d'angolo, ma sarà rimessa dal fondo, si rimessa. Vediamo un po' perché la palla sembra decisamente deviata dal portiere del Barcellona. Comunque 0-0 al 54esimo, sì, infatti calcio d'angolo per la Juventus, mentre a Monaco il Borussia Dortmund ha accorciato le distanze, francesi avanti per 2-1 in questo istante, forse lo ricordiamo anche del 3-2 in trasferta dell'andata. Se sei d'accordo seguiamo questo calcio d'angolo della Juventus. Pjanic, la parabola centro area, salta Chiellini, ma c'è un fallo su Umtiti, il Barcellona può ripartire e anzi parte anche in contropiede. 54esimo di gioco, 0-0 al Camp Nou, ancora tra Barcellona e Juventus. Grazie a Dario Ricci. Io concluderei questo effetto notte con una misura che entra in vigore da oggi. Allora, entra in vigore da oggi l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti lattiero-caseari realizzati in Italia. Una dicitura che l'Italia introduce con l'obiettivo di dare al consumatore la massima informazione sui prodotti che acquista. Allora, siccome è importante, ascoltiamo questa intervista di Laura Bettini a Sabina Rubini, biologa esperta in sicurezza degli alimenti. Questa dicitura è in via sperimentale e fino al 31 marzo del 2019, sempre che prima non intervenga la Comunità Europea a decidere che sarà obbligatoria per tutta la comunità. Quindi in pratica l'Italia si è autoimposta questa regola. Sì, sì, qui partiamo da tre punti fondamentali. Allora, se il paese ha effettuato la mungitura, si è effettuato il cosiddetto condizionamento, cosa vuol dire l'ultimo trattamento termico, e poi se il paese ha effettuato la trasformazione. Cioè, ci saranno scritte tutte e tre queste cose? Allora sì, queste fasi devono essere messe in evidenza, e quindi devono essere messe in evidenza anche in maniera diversa a seconda che tutto avvenga nello stesso paese. Quindi in quel caso si può scrivere origine del latte, per esempio Italia. Oppure se i paesi sono diversi, allora si scrive latte di paesi europei, per esempio per la mungitura, e poi latte confezionato o trasformato in paesi europei, e si mette il nome dei paesi europei. Oppure l'ultimo caso, quando tutto avviene in diversi paesi che sono extra europei. Ci farà caso chi berrà latte domattina a colazione? Chiudiamo qui questo effetto notte, ci ritroviamo tra poco con i titoli del giornale radio delle 22.